negli ultimi anni le nostre imprese hanno investito molto, il tasso di innovazione è aumentato, la ricerca e sviluppo è aumentato, sono aumentati i brevetti, è aumentato anche il contenuto qualitativo. Quindi ci sono delle buone ragioni che giustificano queste performance, sono tra l'altro un po' in rallentamento con la congiuntura che si sta raffreddando, un anno fa il ritmo di crescita dell'esport era prossimo al 20%, quindi questo 8,2 va anche visto in questo contesto. Il problema è che continuiamo a avere un'industria polarizzata con risultati buoni che sono dati da imprese eccellenti e ci sono ancora molte imprese che sono arretrate, che sono un po' da zavorra a risultati complessivi, quindi siamo un paese che cresce relativamente poco, non perché siamo tutti poco competitivi, ma perché solo una parte è competitiva. Una cosa, quando noi vediamo che il dato sull'export verso la Cina è in calo, allora va benissimo il Brasile, perché sappiamo che i nuovi ricchi sono Brasile, Cina, Russia, India, alcuni ci giungono anche in Sudafrica, ma insomma andrei più cauto lì, ma anche come volumi. Ma Russia più 15, Brasile più 30 sono ottimi dati. Secondo lei come mai in Cina c'è stato un rallentamento? Cioè all'interno di queste dinamiche è possibile cogliere anche qualche criticità? Sulla Cina viene innanzitutto detto che ci sono due Cine, c'è la Cina mainland che oggettivamente è in rallentamento perché sta rallentando complessivamente la crescita del paese, noi siamo abituati a un paese che cresce moltissimo, adesso sta crescendo un pochino di meno, si stanno assestando su delle attese di minor crescita strutturale, comprando da noi soprattutto macchine e stanno rallentando, però c'è anche Hong Kong, e grosso modo le nostre esportazioni vanno metà su Hong Kong e metà sulla Cina, Hong Kong continua ad andare molto bene, continua a crescere attorno al 20%, quindi uno scenario misto, dobbiamo tenere presente che sono mercati importantissimi che crescono, rappresentano ancora adesso però tutto sommato solo il 5%, quindi ci sono meno di quello che noi facciamo ad esempio sulla sponda sud del Mediterraneo.